cambia nulla, resta uguale. Tranne l'amore di tua madre. La gente cambia, il cash ti cambia. Più ne fai e più non ti basta. Cambia il modo in cui la guardo mentre sta con lui. Penso son troppo cambiato, forse è meglio lui. Cambio vestiti, cambio appartamento. Non ho mai cambiato quello che c'è dentro. E non lo vedi che sono sincero? Che se son triste piange pure il cielo. Mai tradito un frate per una tipa. Mai tradito una tipa che amavo davvero. Dimmi che ne sai dei momenti, no? Mi hai visto sorridere sopra uno yacht. E pensi sia tutto ok, pensi sia tutto a po'. Ma non è un cazzo a po', son cambiato da un po'. Ho cambiato un'altra tipa mentre pensavo a te. E un po' ha cambiato vita, un po' le ha cambiato me. Bottiglie privé non valgono niente, ma queste modelle non sono come te. Mi guardi e mi dici per me sei lo stesso di sempre, ma so che mi menti e non capisco perché. Solo pure in mezzo alla gente tra bottiglie privé. Si fanno la foto e dopo non rimane più niente tra bottiglie privé. E facciamo l'amore dentro l'ascensore. Ho messo le stelle come destinazione. Si sono un tipo di poche parole che le spreca per poche persone. Tu forse non te lo ricordi più. Dicevano non è cool, pure un mese o poco più. Mi volevano giù ma tu no. Ma è da un po' che non ti riconosco più. E ho cambiato un'altra tipa mentre pensavo a te. E un po' ha cambiato vita, un po' le ha cambiato me. Bottiglie privé non valgono niente, ma queste modelle non sono come te. Mi guardi e mi dici per me sei lo stesso di sempre, ma so che mi menti e non capisco perché. Bottiglie privé non valgono niente, ma queste modelle non sono come te. Mi guardi e mi dici per me sei lo stesso di sempre, ma so che mi menti e non capisco perché. Solo pure in mezzo alla gente tra bottiglie privé. Si fanno la foto e dopo non rimane più niente tra bottiglie privé.